passaggio. Allora mi fai da 1, 1, 2, 3, da C, da... aspetta, va, da 1, 1, 2, 3, l'altro è 7. 7 è negativo qua, però, Ok, poi grazie, ma da solo siete rimasti. Ci sono anche io, guarda che non mi ascolti, Capri! Ci sono anch'io! Ecco perché io stavo chiedendo controlli, Sambo, perché qui stavo inalzando il capo dell'antenna, proprio li ho saltati, PL, proprio per non c'è... Allora, la lancetta è incollata, non va oltre, perché non c'è più, proprio c'è sul fondo scala, qui c'è a 9.30 la parecchio, ma con la capo c'hai, dammi un controllo a me adesso lì. Ma qui c'è Santiago 8 Radio 5, perfetta. Grande bacio. Oi, ci sono anche io, oi, voglio. Scusa. Io. Perfetto, lo senti, Capri. Ehi, ciao Antonio, buonasera. E niente, ma qui c'è la gente tutta quanta attaccata. Guarda, guarda il mio com'è, se ti fa fare 200 smitter. Sappiamo 4 tu fatti gli arrivi, però la radio può essere anche più forte, migliorati la radio 4 se li sappiamo. La radio com'è? Com'è la radio? No, ti ascolto, è la radio 3, comprensibilissima, però se c'è Santiago Alto adesso la radio, cioè bisogna che tu amplificato qualcosa che ti spiega. Mario è a Pomoscara c'è vedere, di qui è il 9.30 lì, ma non di più, perché Pomoscara c'è scritto di Big nel corno, quindi è quello a Manettone che arriva Mario Manser. Chiami. Grazie a tutti. O dolce o amaro. sei, tu brucia, bevo un pugno. Attenzione, se ascoltate il mio lupo, buonasera. Ah, ma ti ascoltiamo un po', Peschiantino, sì, un po' Peschiantino, Che sta a usare, che sta a usare? State fischiando adesso? Sta sempre fischiando. Avete parlato tutto il sabato domenico, me lo avete schiacciato. Grazie domenico. Più forte di me, o perlomeno disturba parecchio. Vario, che ho le ali rotte. E beh, quello io non lo so, quello lo deve dire Domenico, perché io non lo posso dire se tu hai le ali rotte o un becco fratturato. Sto scherzando, guarda che sono liscio, Mario, è liscio come l'olio, più va la macchia più si espande. Sì, stavo parlando Domenico, mi ha detto che io lì nella salita di Saccaggia mi arrivo a fondo scala. Carissimo! Carissimo! Che te ne apri la meta, dai! Ma sì, guarda adesso, Mario, Domenico, guarda adesso il segnale! Guarda... Mamma mia, quello l'ho coperto! Ok, ok, e quindi Mario però, diciamo... Lui a Sassari, chissà con la Gianni a 31, ma c'è la vita mia, ma che ne ho una stanza di apparati, io non modula più. Mi chiama Radio Amatrice che non modula più, e mi ha detto che sì, qualche giorno, ne porto qualche... Ma chi è che sta sovramodulando? Ma un giorno importante... che sta facendo coprire a Campo 2, che non lo sento, e non sento più manca Domenico. Me ne parla sopra. Allora, signor Pomponio, guarda che vengo lì, vengo, e guarda che ho tutti i ricordi, si chiama registrati, segnali, e c'è Giuseppe e Gianni, vanno a Benevena. Pomponio, fai da bravo, guarda che attacco, Pugno questo, no? E chi è Natali? Arriva troppo forte qua per essere Pugni. E chi è Natali? Vino prova le cose, amici, stanno provando una pentola lì. Fino a dopo Meteorioso, attenzione, dove ricordai R se ascolti K2. Ma che? Che mare che sono le mare natali? No, che le mare vuole dire chi non imbatte gusto. È quello là che non imbatte, non sei tu, no. È Domenico che non imbatte nulla. Attento, città dell'amore, si senti Sierra Sierra che fa chiamata. Stiamo sentendo anche a Pesura, che viene vicino. Io poc'anzi quando l'ho mollato era nella salita di San Caggia. Adesso mi ho una ombra che non ci sente, o non lo so, oppure si è acceso la radio, perché stavamo facendo un po' i corsi, poi c'era anche questa portante che non ce la faceva ascoltare. Gappa. Adesso si prova a rilanciarlo per l'ennesima volta. Attento, città dell'amore, si occupi qui. Magari lui ci sente pure, ma è lui che non arriva qua, che sta in zona rosca, capito? Gappa. Andiamo bene, dai, riprendi Capri 2. E adesso le faccio un'altra chiamata. Attenzione Domenico, QSL si ascolti. La stazione è Capri 2 dal QTH di Mike Unifor. Vai avanti Domenico. E quel titolo oscillando a salire. Però se lui che non arriva, lui non arriva, proprio lo smitter lo vedo. Quando muoio vedo lo smitter rompendosi. Però non sento né radio né segnale. Lui non arriva, non ha potenze da poter arrivare qua, capito? È quello che ti volevo dire io. Magari lui ci sente pure, però non arriva lui. Anch'io vedo lo smitter che si muove, ma non negativo, né radio né segnale. Non lo so, è quel di Pomponio cosa stanno facendo. A me lo dici cosa stanno facendo. Comunque fa di fatto che come ti dico io che non è lui, perché 9:10 qua c'è poco da andare lontano. Ehi Mario, avanti. Ma proviamo a chiamare a doppio rum, sei ancora a casa di Pomponio, sei nuovamente in BM. Attento, doppio rum, ci sei? Doppio rum, ci sei? Cambia basso. No, forse è ancora a casa di Pomponio. No, non ti sente perché c'hanno la marmellatina. C'hanno il prosciutto nelle orecchie. Gabba, attento, Pomponio. E magari sono al bar, oppure stanno parlando in verticale, diciamo il bar a chi non spento, capito? Gabba. Natalino, ma guarda, insegna i miei segnali così come il segnale, Natalino, come adesso, quando arriva. Sì, poco fa mi arrivavi 8, capito? Il tuo segnale è quello. Ok, quindi già parlando bene. E niente, io ho qui come belli apparati che ho strangolati sulla mia destra. Uno funziona negli altri due da fare. Però sono dovuto mettere a posto proprio per usarli come elettronico, per essere sempre come soldati, sempre pronti a, capito, essere presentabili. Ripeti Mario. Cappa, ma guarda che Capri, cioè io te l'ho già detto, quando tu non li vuoi più vedere, la tua signora non li vuole più vedere, un fischio, io arrivo così, li butto tutto sopra, poi ce ne arrangio io. Quando non lo leo ti lo regala, ma ti regala quando voglio io, perché non ne frega nulla. Cioè, mi amare i miei figli perché sono, per loro sono come dei soprammobili, per amare i quellesimi diciamo pure, c'è una cosa mia, loro la tengo, adesso c'è una Ducati, un 350, c'è una vita, un Ducati Marchi 3, un cilindrico, c'è fatto con i giorno che sono in garage, stavo decidendo cosa fare, l'ho messo, hai capito, io sto temendo che no, però non me ne sono interessato degli apparati, no, se no avrebbero anche trovato, va perché il grave ha tutte le sue ambizioni, per il suo cuore, ma... Ma questa volta non ho avuto quanto sono entrato. Ma poi, sotto. Quando abbiamo stato di qua, che poi al limite si saltano, avevano i capi due, schema, Adriano. faccio lo schema, ma le medie sono tutte da rifare, tutte le medie frequenze sono tutte da rifare, si possono fare, dici? Tutto si può fare, non esiste niente che non si possa mettere a posto al mondo, tutto quello che è stato fatto si può riparare logicamente. No, io intendevo il manuale d'assistenza, non il manuale utente, quello c'hai tu. Poi io ho proprio lo schema di tutti gli apparati che sono stati prodotti dagli anni 70 adesso. Vabbè, ci stiamo facendo fin di fondo. Che me riprendiamo il discorso rosso dopo, perché eccetera, che c'è i manuali da 1915, da Guglielmo Marconi a oggi, serve il manuale tecnico assistenza, servizio assistenza. Comunque se confermi che 25B lo fa, me lo scrivo, lo cerco qua, comunque non penso che sia problema. Tanto poi la 25B, 35B è sempre quella dei 23 canali valvolare. Fai girare Mario o Natalino, avanti Mario là. Cattagatta, va bene, riprendi il parchetto che c'è in parcheggio. Rigiro il bike a te, dai, che è un discorso serio, che ti sto facendo capri due, là. Riprendi. Ecco, parchetto era quello lì. Buonasera, parchetto. Buonasera. C'è coso lì, Natalino che sta togliendo la pappa asciutta dal microfono. Brava. Ma quale pappa asciutta, ragazza, che mi stavo pulendo i bracci, che faceva schifo. Io ho detto per volerti bene che c'era la pappa asciutta sul microfono, perché la pappa asciutta ce l'hai sul Galaxy. Neanche, non ce l'ho neanche sul Galaxy, sono tutti e due puliti adesso. Calpitina. Niente di vecchia, signor. Facci. Scrivo una cosettina e ritorno subito, riprendetela. D'accordo, scrivi, è a notte. Riprendi Capri 2. Che ti ne varia, Bubu, non hai sempre usato, ma meglio la tua giornata. sto scherzando. No, niente, cosa posso dire? Nulla, relazio ormai che a te Mario, perché non so cosa dire Mario, tutto qua. Andrà bene. No, che dire? Vabbè, avrà finito di pulire il Galaxy, l'amico Canugino. Avanti, Canugino. Ho fatto un attimo di fianco, che sto facendo cosa, Mario? Ma cosa... Però credo che state solamente pulendo l'apparato e basta, forse avevo capito male, là. Anda bene, e che dire, cani da rasura, Franchetto non ha gara, Capri andate a controllarsi l'antenna, e niente, e Adriano stava segnando e annotando gli appunti. Niente, Bubu, andrà bene, riprende il Franchetto. Sì. così. Ma quello che non ci senti tu è che Giuseppe, strano, eh? Giuseppe che si è da coso. Giuseppe che si è da più lungo. Ah, assieme sono. Ecco qua. Ne sono su a casa di Bobulio. Papà! Andrà bene, vera. E così. Che dire? Cosa si può dire? Ma. Bene, non è tanto voce. No, è quello che stavo per dirti, che sono meravigliato che non è entrato né Vena e né Antonio. È vero, se non è che stanno ancora lavorando, vabbè che è presto, perché lui molte volte fa tardi, arriva verso le 9, ma sono già le 9:10. Appunto dico, sono le 9:10 ancora tutto tace, strano però, eh. Ma non so che dirvi, eh. Ma la più tardi, boh. Ma è strano proprio che né uno né Antonio né neanche Vera si è sentito, eh. È il capo di positivo. Ma adesso vediamo un po', trattenici un altro pochettino, vediamo un po' se entrano. Ma senz'altro entrano dopo, dai, magari stanno trabacchiando ancora e non... E niente, dai, ci aspettiamo un attimino se si attaccano. Ma speriamo bene, se attaccano la porta è aperta, possono entrare come e quando vogliono. Chiappa di rogero, e così si conferma. E così, oioioia. Ma domani è tempo messo, anche le previsioni ho guardato oggi, capo. E capo di positivo? No, neanche io lo so, però ho visto questa sera, quando ho finito di lavorare, che stavo rientrando, il cielo era bello nero. Addirittura stava non tanto piovendo, ma più vicinando di quella più generellina, diciamo, di colina, diciamo, là. Appena ha dato un segno, ma io penso che domani sia brutto, Speriamo di no, avanti il fischio. Ehi, Amano, eccomi qui. Bello peppante questo giro, Però poi era bravo, capri due, se no ti faceva quattro di smettere, Ok, ma da soli siamo? No, c'è... E Natalino ci ha chiesto un attimo di bianco che stava facendo delle corrette e ecco il Franchetto. Ma sei a tu, vieni avanti. Ah papà, è bravo che mi si dà due giri di smitter che stai facendo fare, Ma se io ti ho controllato un filo, stiamo già ascoltando, cioè è questione di un minuto. primi, ma... D'accordo, guarda che la radio si è sporcata un po', Quest'ultimo passaggio la radio si è sporcata, l'ingresso l'hai fatto bello, e quest'ultimo passaggio invece l'hai fatto un po' sporco. Perché sto parlando lontano, ma dal microfono. Ah, ecco, appaggio, appaggio andrà bene. Andrà bene, Nera. Vediamo se Adriano invece ha finito di annotare e segnare. Attento, Adriano. Non è caso da non ido, ho frutti di lì, e mando mi sono ido. c'è un po' di cose, Mario. C'è un po' di ringhieri, i palazzi. Dai, dai, che sai che non sia nulla. Non è nulla, si scherza, Mario, dai, comunque ti rilancio mai, che perché io se no parlo troppo e non va bene così, dai Mario, ti rilancio mai, dai, vedi un po' se la carina smesso di pulire gli apparati lì. Ma che attenzione che si consuma la ringa. Io conosco gente che parlando troppo gli si è consumata la ringa, ci credi? Infatti per quello io parlo poco. Invece a Natalino si è consumata la lingua, vabbè, facendo altre cose, no, come non si può vivere a Natalino. Se mi piace leccare a te, cosa te ne frega? Cazzettina. Va che scendo male, chiama microfono, ha parlato, va che cosa. Io ti sei bruciata la rasura, io non ho detto che senti la lingua la usi per leccare. C'è qualche pelo sotto sulla lingua te lo trovi, ma lo. Oh, ma fai che vada lì, si scende anche a te. Sono col presidente. Appunto. Me l'avevo immaginato. Bugazzi, intanto fa qualche cosa, lo sappro sì. Ma eppure so che ne va. Adesso ho ammazzato, va bene. Fa un culo a innesco. Mario, non comprendo un cazzo di bene. Che a parte che sta anche innescando un pochettino, non molto, ma sta, c'è un piccolo innesco e poi non pare che io faccia un po' quel battato in bocca. Aspetta lì, prima sta riuscendo molto meglio mi. Natalino, te ne come niente. Quindi non so portare. Sicilia, la partita, andiamo a tutta. Prima con l'uomo ci lo butto. Adesso, vabbè, vediamo un po'. Io sto aspettando con la sigla che mi devi dare, così io cambio, se è quello. Se no, i segnali bassi li sento bene, i segnali forti quando tiro a fare un culo. PLL, no! No, è come il PLL allora. PLL è molto più grande come integrato. Ma come parlo di PD io, No, c'è una musica di PLL. Del macchine inserito così molto bene. Ti ascolto sempre bene, te che sa perché. Stavo dicendo, preso lei quella cosa, Gianni? Cappa. And- di positivo, riprende Falchetto. Eia, salutoni e Antonio Bombo per il tratto. Ma ciao Falchetto. Ciao Antonio. E beh già, tutto a posto? Eia, sembra di sì. Adesso lo provo a casa per come va. Sto bene scanno perché praticamente lui c'ha l'antenna con la magnetica che gli da stazionare, quindi non si può provare, dai così. Giappa, giappa, adesso è bene lì, te lo provi. Cosa ti si è rovinato già? No, niente, ho preso un microfono. Sia Delta, dopo. Adesso c'è la modulazione come la mia, lì. Gianni? No, come la tua no, qui c'è la voce grossa Mario, tu dici più forte. Sì, vabbè, ma c'è lo stesso microfono che si abbina bene con l'apparato e niente, dovresti uscire bello squillante. Oh, no, no, uso, e tu c'è anche lei, come noi. Capa. Capa. Ah, quello di cosa? L'amico di Alice. Di. Adesso mi sfugge. Faccio un pochettino la modulazione perché si è strappato un po'. Io so, aspetta un attimino. È un po' un medio casino, ecco. Non so dovrebbe andare bene. Sì, è il microfono, visto che va. Visto che avevo l'apparato in mano e anche il microfono. Sono preso la curiosità e provato su due o tre apparati, ho visto che si è adatta bene. Gappa. Sì, sicuramente è quello lì, adesso è un bel po' più basso. Magari un pelino di più e si è perfetto. Cioè, cosa devo fare? Aumentare o abbassare? Adesso è perfetto. Devo fare, aumentare o passare, non ho capito. Ma che luccichi andare. Ecco. Avanti Giuseppe. Guarda, ha migliorato qualcosa via. Registrato il break, un secondino. Un attimo, il break, un attimino. Prova Natalia. Guarda un po' se ha migliorato qualcosa. Sì, leggermente sì, poi ti diranno gli altri. Avanti, break, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti da parte di Tornado Cambio. Buonasera, Giuseppe Tornado, se non vado errato. Compagnia di tutti quelli che hai sentito prima, si è fatto ascolto come si suol fare. Avanti Mario. Ciao Giuseppe, ben rientrato. Tutta gappa, sì. Giuseppe si è parato. No, è che ogni tanto questo apparecchio qui, anche se una portante aperta, lo smitter se ne va a zero, non riesco a capire il perché. Ora se che non lo schiacci bene se ne ritorna indietro. Ma vediamo un pochino, dai, vediamo cosa si può fare. Vediamo un pochino così. E così, eccoci qua. Sì, avanti, dai. Mi pare di aver sentito anche Antonio Bombolo. Buonasera anche a te Antonio. Buonasera Giuseppe, deve scaldare un pochino. Buonasera, dove te ne hai sentito? Buonasera Giuseppe. Sì, Natali, hai migliorato un pochino, va, già va bene. Buonasera. buonasera, buonasera anche a te, amico Falchetto. Tutto K? Tutto K? Tutto Roger, tutto ok, tutto premier. Muy bien, muy muy bien. E l'amico doppio room? Sto per riprendere a casa. K di positivo, vai. E riprenditela tu, bombo. Ma sei appena tornato, no? Sì, non dal lavoro però. Ero, mi sono assentato perché stavo facendo una commissione. Cappa, io già ho sentito già che non mi sono addormentato un po' perché avevo molta stanchezza stasera. Tanto ci mancherebbe altro, poi anche il tempo che sta facendo, guarda, non è che sia favorevole, figurati che io stamattina mi sono svegliato più stanco di quando mi sono coricato. Ciao, è così, vabbè, c'è un periodo un po' così, sei sempre stanco quando rientri da lavoro. Sempre un poco mezzo crepato. Anda bene me tanto, già passeranno anche questi, mannaggia. Una vita c'hai comunque. E Mario? A tu, siamo già due giorni che non sentiamo tuo padre, ma cosa sta, poco bene? No, sicuramente è indaffarato, sta facendo cosa. No, magari noi, essendo due giorni che non lo sentiamo, pensavo che stava male, niente là. Se è tutto a posto, che da parte le altre cose va tutto a cappa. Anda bene mela, riprendi Falchetto. Sempre con me ce l'hai, sempre con me. Facciamo girare alla Ricco, dai, che. Che sta bike, avanti Andrea. Stand by, ho fatto stand by. Mario, mi sono andato lì, attacco a Falchetto, altrimenti non si scucisce, non sollaga. Sì, questo qui non lo dovevano chiamare Falchetto, lo dovevano chiamare menopausa. È bastardo due di nuovo. Oh signor, come che meno pausa. Cosa vogliamo dire? Mannaggia. No, mi stavo riferendo a Natalino, che poc'anzi è uscito bene. Non so se abbia copiato Natalino, confermi Natalino. Sì, già ho ascoltato, va. Ma sicuramente la prolunga. Domani già me la faccio meglio, va. Che c'è una finotta un po' così. Gappa gappa. Ok, riprendi Giuseppe. Gappa di Roger Falchè. Allora il discorso, sai qual è? Tutti contro di te ce l'hanno, mi Falchè. Perché solo perché sei chiacchierone, solo per quello. Infatti. Giuseppe, la verità è che ti fate un gappa a cacco e noi non aguantiamo. Ci fa una testa tanta e lui parla sopra modo e Cardinale Falchetto. Cappa di positivo. Adesso guarda, per rilanciarlo gli facciamo fare un ingresso trionfale. Senti Falchè, aspetta un secondo solo, Signori, signore e signori, a voi il falchetto. E noi rilanciamo a Mario, riprendi. Peccato, Gesù, una vagogna sì, perché di solito il Falchetto è sempre bello, attento, pronto alla battuta. Chi sei un pianimusso? Andrea, hai te, la buca ne va vedere un bene, ti va a far che tu parla troppo, fu, va, riprendi Mario. No, no, aspetta, che ne dico una io, se Giuseppe ci ha messo 25 minuti di organizzare il tavolo apparecchiatura a fare l'inglese del falchetto, io ti umiliare da Gian Mario, quello che è rimasto male Giuseppe. Ecco, avanti. Buonasera a tutti, un controllo orario ci può avere? Passaggio 1, 2, 3, prova. Nuovamente Radio Super 5. Ma quel bimbi non mi piace però, Gianni. Non mi piace, Porto, guarda. Adesso va bene. Ehi, qua c'è tutto quanto, c'è anche l'ecco, aspetta, proviamo l'ecco. Guarda, con l'ecco come va? Ah, passaggio, più lungo, non parlare poco, parla molto per far parlare, come parla Falchetto, parla molto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, Bisma, non ce n'è. Comunque non mi avete veramente soddisfatto e non mi avete dato un controllo come si deve. Un attimo, Giuseppe, un attimo, anche bombo, ci sono un pochettino qua nelle scatole, lei però non ce l'avete, perlomeno quando ho sentito, io poi mi sono spostato per controllare, praticamente ci vuole sassi, ma io ci vuole in nesco. Non ce l'avevi, ecco, ma sto uscendo bene in radio. C'è il problema Falchetto, caro Giuseppe, che fa troppo ping pong e parla troppo, e poi tutti i casi si annoiano, devo aspettare che lui sta lì parlando, mamma mia. Cioè, anche io non ne posso più, lasciaci parlare un po' anche a noi. Scappare, non c'è mai che Giuseppe, vai. Lasciare il messaggio dopo questo breve bip. quindi qualche giorno è capace anche che lo può fare una cosa del genere, ci attacca sulle telefoni, cala l'apparato, altrimenti si stanca con la lingua, no? Perché c'è la lingua, l'ha detto lui poco fa, prima qualche che c'è la lingua che si stanca. E lì qualcuno lo chiama, risponde direttamente al telefono, lascia il messaggio dopo lì. Poi c'era ancora due cadivi e coia. Salve, la massa te ne guaglia, ne sei 254 guerre quadrette. Allora, si scherza, parliamo di cosa uccide, dai. Qui rispondo alla segreteria telefonica. Ma chi disperato vuole il bagno? Mario, vai. Guarda, riprendi i banchi, Mario, vai. Conoscenza, sì, Falche. Conoscenza. Non ne posso più, non ne posso più. Cambia basso. Riprendi a tu. Come si dice qualche rosso di sera poi si spera. Allora, quello che dico a Mario, Mario domani alle 4:30. Vabbè, a parte stamattina che un pochettino così convinto che era troppo presto, e invece era appena più tardino, là. Ah, siccome avanti ieri mi hai buttito, no, mi hai già sentito le 4, ma con 4 e non vedeva con cani. No, vai, non ascolta, c'era la segreteria telefonica. Mario, ti hai dimenticato che c'era il fuso orario? Mario, a proposito, ma quella è la situazione dell'aria, tirata là. Vale. Così sì, no, che mi stavo dicendo l'altro giorno. Ehi, perché lo vuoi sentire? Guarda se ti fanno 4 giri di smitter, 1, 2, 3, prova. Va bene, già va bene, manco satura. Lo so che non satura. E te, Adria? Sa che lasciamo spazio agli altri, non è che ti dico, lasciamo qua mettermi giù. E lei ci ha proposto, minchia Mario, mi sono passato alle 9:20 a 9:32 circa, quasi 35, ma se te ne vuoi, ero curioso di sapere se c'era, a parte che abbiamo scelto Gianni in bianco, ero curioso di sapere se c'era Natalino, se aveva risolto il problema, Natalino. Già ci sono. Vabbè, Natalia, la risata di Falchetta ha detto tutto, quindi il problema non è risolto. Gianni, ci sei tu? Gianni, no, non c'è Capri 2, ci sei tu Capri 2? Io già ci sono qui, stavo ascoltando la storia di Falchetta, comunque si può fare una roba del genere, basta sapere programmarlo con un timer a una certa ora, hai capito, che si accenda sul 21, tipo quelli che ho io, dei noiti con l'orologio, si accende una certa ora e lì automaticamente dopo entra a intervalli con la registrazione. Bene, sono andato Giuseppe. Tappa di positivo, amico Capri 2, sì, però io lo metto, però nonostante tutto non è manco una cattiva idea, magari stai caricando alla grande e imposti l'apparecchio, no? Avanti Falchetto, avanti quello, avanti quell'altro, tiragli un po' così e sei tranquillo. Cappa, niente, mi stavo ricordando il Natalino io, mi prendi Mario. No, perché girala, riprogrammati, adesso devi dire, riprendi Natalino. Mi prendi Natalino. Dai, riprova, sarebbe fortunato. Le prende la tariffa. Ma come la gioco io, poi tu buon come? Qualche a te, ma cambiata la lingua, fa vedere. Dai, Datemi la corda, su. Non sento, ma fa il culo. Dai, la mattina della coscia, della pietra, muori, va bene. Io, carissimo. Guarda, vieni, altro va bene, adesso lo fai detto. Massimiliano, Master. Buongiorno. Ui, ui, riprendi Mario. Ehi, no, riprendo io, vi saluto a tutti, dai, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Massimiliano. Ciao, buonanotte. Buonanotte, ci risentiamo presto, Kappa. E avanti Adriano per i saluti. Kappa, ciao Massimiliano, ma c'era Antonio poco fa, vabbè. Ciao a tutti e due, buonanotte, ci vediamo alle prossime. Avanti Mario. Massimiliano da Caprile. Massimiliano, guarda, c'è stato due che sta chiamando. Massimiliano. Ci siamo sempre, mi tra 5 minuti sto chiudendo. C'è Massimiliano che mi sta chiamando. Io stavo chiamando un golfer da Capri. No, sicuramente ha già chiuso. No, per vedere se era passata la Pontorio che gli ho lasciato quella roba lì. Detto, buonanotte. Ha chiuso, è entrato a salutare. Sì, sì, ha chiuso, dai. E avanti Mario per Giuseppe, calma. Antonio, può passare 40 un attimo, scusate. Va. Capri, guarda che ora, a posto di incollartelo quello svette, ci faccio anche quello lì di baracchino, perché entri poco. Come va? Ho letto che siccome tu entri poco, no, adesso a posto di farti incollare quello svette, ti spacco il baracchino. Non fa problema, padre, non ce n'è problema, non si vive di solo stare. Cappa! Cappa di positivo! Nicolato c'è lo Smitter, Capri 2! Sì, già lo incogli ogni tanto, a peggio dell'Apax, sì. Ogni tanto già lo incogli, Alessio per esempio, ogni tanto già fa bene, così me lo, diciamo, me lo tieni in movimento, perché sì, se li hai così io li dicevo pochi, sono i camionisti quando passano sotto il bivio. Ecco, poi passa col tetto, va. Allora, ma con dei sciocchetti c'è un po' il suo baracchino. E allora, è sempre fermo questo, guardo, Stefano, questo era di Stefano, sì. Quello baracchino, comunque, a me le cose lì mi piacciono, perché se mi posso permettere di comprarmi chissà che cosa, però sono sempre rimasto a questi affaretti, ma ok, riprendete, rilascio il tutto Adriano, ti rimetto il cambio, vai. Sì, capo, fra un 10 minuti vi saluto, grazie in anticipo comunque, perché tanto qui lo so che c'è qualche tempo che comincia a sovramodulare, a fare casino, quindi approfitto che c'è il mic e saluto tutti in anticipo, indifferentemente. Tanto lo so che la sorprende Falchetto, quindi lo lancio direttamente e basta, avanti Falchetto. E io anch'io ne approfitto, buonanotte a tutti e ci ascoltiamo nel prossimo. Ciao Adriano. Sì, direi che ne ho terminato. È scusato a benzina, bullando di atteso. Ciao, ciao. Ciao Mario. Ciao Gian, no, vabbè, Gian si è spostato. Con Antonio. Ciao Capri. Natalino. Mario. No, mi sembra che in questo canale fammi tutti spostati e non mi sembra di aver dimenticato nessuno. Ciao a tutti, Giuseppe, a proposito invece, Giuseppe come facciamo di mettere il camero? Che non so, mi incolla lo Smitter, salta anche il watt, metterlo con il modulo a lui. Ciao a tutti, riprendi Giuseppe. Tappa di positivo Adriano, dai, e anche a te una serena notte e un buon inizio di trabacco per domani. Approfitto anch'io, giusto perché ho il mic in questo momento, e anche Giuseppe fra 5 minuti chiude le trasmissioni perché domattina c'è la Natale Pappaccia, dai, poi con Mario Marchetto ci sentiamo domattina in modulazione. Avanti Antonio per Adriano, K. Antonio non c'è, perché è andato su un altro canale con Dottor Rom. Niente. Ciao Adriano, buonanotte, buon tutto. E ce la riascoltiamo alle prossime. E buon lavoro per domani. K di positivo, riprendi qualche. K, ciao Adriano, buonanotte e buon trabacco per domani, dai. Riprendi Antonio, non c'è, Charlie non c'è, riprendi Natalie. Natalie non c'è. Ok, riprendi Giuseppe, dai, io ne approfitto, faccio QRT, dai, ce ne ascoltiamo dalle migliori. Ciao ciao. Ciao Fache, dai, ci sentiamo domattina. E approfitto anche, già che sto girando il mic a Mario, e se per cortesia, visto che l'apparato adesso è scaldato un pochino, se mi può dare cordialmente un controllo radio per vedere se stiamo mantenendo sempre le stesse coordinate di segnale K. Qui c'è sempre 9:20 radio super 5. K di positivo, ma domani si fuori Sassari. K di positivo, Mario, e domani facciamo tutta la zona della Gallura, K. Ah, K, però io domani dovrei scendere a Ortana, cambio basso, anda bene vela, ne approfitto comunque per salutare a Forchetto, buonanotte, buon QRT. E ce la risentiamo domani mattina, là, prima del lavoro, KK, riprendi Giuseppe, ma stai chiudendo? Sì, dai, due minuti, altri due minuti, dai, di conversazione, perché poi faccio una doccia veloce, veloce, veloce, a nanna, perché oltretutto domani è un pochino fastidioso come giro, perché devo iniziare da Tempio, Arzachena, Olbia e l'ultimo scarico lo faccio su a San Teodoro, però poi me ne rientro sempre da Olbia, Mario. Ah, cappa, anda bene, va. No, io domani dovrei andare, non so a che ora mi mandano, penso che devo scendere a Ottana. Cappa di positivo, va bene. Allora, buon QRT, buon tutto, va. Buon riposo. E ce la riascoltiamo domani mattina, senza dubbio, prima alla partenza sicuramente, va. Ok, buonanotte e buon tutto. Ce la riascoltiamo, Giuseppe. K di positivo, Mario, dai, una serena notte anche a te, Mario, e niente, cosa dirti, buon inizio di trabacco anche a te per domani, e ce la riascoltiamo sicuramente, Mario, iniziando da domattina, e poi ne la finiamo come sempre domani sera, dai, sempre in allegria. Ciao Mario, cordialità e una stretta di mano da parte di Giuseppe. K. Io sono più corto, tutto è cambiato al centro. Ciao, a domani. Ma come se ne sta andando via? Giuseppe, è andato via anche Porchetto, sono andati via tutti, Adriano, Porchetto e Giuseppe. Cappa, non ho chiesto un attimino. Saluto Giuseppe, cioè risentiamo le scimine. Adriano e tutti quelli che sono andati via, dai. Sono andato un attimino sul 40 perché mi ha chiesto, mi hanno chiesto dei controlli. E il K di positivo, ma dottor Ru ha chiuso o è venuto anche lui qui? Non so, penso che sia venuto Natalino. Ma stavo flatterando se stavo Mario. No. Cappa, no, io già ti sentivo ma non mi davo il fastidio. Parlava già tranquillamente Natalino. Cappa, va bene. Allora io le rilancio, se ci sono, ci sono, se no, come dico le braccia, tanti dottor Rucci, sì. Io che ci sono, vai. Come sto uscendo adesso? Ma a me mi sta arrivando forte e chiaro. Santiago 9:20, abbondante. Non arrivi a 9:25, però c'è una linea oltre il 9:20. È una radio di 5. Super. Adesso l'ho regolato anche lei, guarda. Guarda, se l'ho regolato lei. E capo, no, guarda, io non lo metto perché a me mi hanno detto che con la mia modulazione quell'eco che c'è nel microfono è brutto, questo che c'è nell'apparato non piace a nessuno, e allora non lo metto. Ma invece non mi aggiusta la modulazione, perché mi sono ascoltato a vedere come è uscito. Adesso è inserito l'eccolino, com'è? Buono! Ma invece mi piace. Tutti quanti mi hanno detto che è bellissimo. Io, fa una cosa, prendi le cuffie, mettitele in un'altra parte e ti ascolti, come ho fatto io. Vabbè, adesso devo andare a cercare le cuffie che me le hanno conservate e non so ancora dove le hanno messe. Vabbè, comunque, adesso che me l'hai detto, domani mi provo, va. E per ascoltarmi, come mi devo spostare in PA? No, ti attacchi le cuffie in un altro palato se fa antenna e poi parli da quello dove c'è l'antenna e ti ascolti. Ah, KK, parla bene, va. Anda bene, bene, bella. E così è. No, a me gli altri mi dicevano che era bellissimo, addirittura io non ne metto, se vedi, c'è anche il Gerbit, però non lo metto mai. Ma la questione è sempre di gusti, cose, capito? Io mi ascolto, se mi piaccio io, che non piace a te, come una fottina. Anca, paga, paga, va bene, là. Natalino, ci sei anche tu? Ehi, già ci sono. No, credevo che quando hai detto a qualche tua cuffia che niente, che te ne eri andato e invece ti sei spostato insieme a Gianni. Andrà benissimo, no, loro hanno tutti quanti chiuso perché niente, erano stanchi e dovevano dormire. Sì, K, va bene, va. Ti prendi, stava tu. Va bene, dai, pure io mi devo chiudere. Ciao, ciao, buonanotte a tutti, dai. Ci risentiamo tutta domani. Ciao, ciao. Tanto che ti lasci. Poi un pochettino stanchino sono, e oggi lavoravo tanto. Allora, ti capisco, come me non ti può capire nessuno. D'accordo, ciao a tu, buon QRT, buon 144, e ce la riascoltiamo tutta le prossime, la scappa di positivo, vai, Natali. Sì, scappa, ciao Antonio, vai, le prossime. Mi saluto anch'io che me ne vado a Nama. Ciao a tutti, là, QRT per me, sentiamo le prossime. Ciao, ciao Natali, ma Giuseppe è rimasto? No, tutti andati via, ciao Natali, buon 144, buon tutto, e ce la si riascolta domani, e niente, là, le prendi già. Ehi, ah, comunque, secondo me ho fatto un buon acquisto, è nuovo nuovo questo microfono. È il capo di positivo, è come il mio, che c'è la cornetta masculante. Già pagata. No, già esci bene, già, perlomeno, anche io sembra che mi si addice molto alla mia modulazione questo mic. Esce bene, esce bene. Un po' di eco ci voleva per me, per aggiustarmi la modulazione, perché se no mi dicevano che la faceva, ma questo qui mi dà un po' di compressione. Carta di positivo, si conferma. No, va benissimo, perché non è quell'eco fastidioso e poi si fa spingere bene la radio, va, molto pulita, comprensibile, e niente, niente da dire. Ma se rimane qui questo, va, non leggiamo più. Ma è Kappa, l'hai ammirata sotto me, così? Kappa. Va benissimo. Anche io mi l'ho collegato qui e da qui non lo tocco più. Allora, poi gli altri, mi c'ho l'MB24 che è collegato con l'FT7B. Poi ce ne ho quest'altro qui che è della Inter, che però non riesco a avere MC. 112 mi sembra che ed è attaccato a 707 e niente, l'MC60 è attaccato a K e poi ci sono tutti quanti gli altri, diciamo così, quello là c'è il diavolo rosso, già l'hai visto, da Pomponio, e il Milan c'ha il suo microfono che è a spinotto, che è diverso da tutti gli altri, c'ha uno spinotto tipo attacco delle cuffie, e niente, tutto qua, e poi ci sono tutti quanti quelli della di macchina, che sono tutti quanti sistemati qui, e niente. E già abbastanza, va, andate così, no, andate così. Non c'è problema. Ora, tanto una piccola modulazione che dà. E a parte quello, senta tua figlia che ogni tanto si sente lo frullino. Ah, Marco, si sente tutto qua. Certo, si sente anche tua figlia. Che cazzo. È uno spione quel microfono, perché fa sentire tutto. Capagava. E vabbè, come va? Vabbè. Ci lavoriamo. Hola. Mi sono sentito, non ha fatto, vado benissimo. Capagava nel positivo, si conferma. E ultimo. Solo che quando si è all'apparato non devi toccare niente, perché tutti i rumori se li porta dentro. Adesso sta ritoccando qualcosa, non so se aveva il cassetto, che cosa, si sentiva roba sforzare e i tuoi figli sottofondo. La camera c'è silenzio assoluto, lo sai com'è, come le bombe, anche da lontano. Lo so, è così. Però sono contento, i microfoni sono così. Gappa. Se ti metti a respirare vicino al microfono, si sente anche il tuo respiro. E guarda, che se meglio si avvicina, l'importante è. Ma adesso si va di nulla. Ma voi cosa fate? No, cosa vuoi che ti dica? No, ma mi pare che sono già venuti di rischio. Mi pare che mi posso mangiare e la poi mi si goccio. E anche devo mangiare, ma non ho mangiato ancora perché la casa da lì si è presa una fitta, ho una cosa da fare, quindi non ho mangiato niente. E però io stavo aspettando mio figlio e invece non è venuto, deve essere che era stanco, perché io ci stavo facendo il manovrare e le langarene, ma tu non ci lento. Ma quando stai? L'ho mandato con un muratore è così che io ce l'ho mandata a sgobbare. Allora, noi dobbiamo essere qui a fare qualcosa. È capo di positivo. Vabbè Mario, va, ti saluto e vado a mangiare anche io qualche boccone perché sono comunque la lo zoo. Sì, vabbè, saluto lì a tutto il quadrato familiare e che la lì si ascolta Gianni. Tutte le prossime, là. Buonanotte, buon tutto e buona carica quando la fai. Ciao! Ciao, ciao, buona carica anche a te, buonanotte. Lasciamo male adesso. È così? Così sì. Bene, scherzato quello dopo il giorno. Secondo me è scherzato, sai dove è stato un po' così. Prova a scordare. Guarda un po'. Si è pensato, ma sì. Allora un secondo, prova a centrarti qualcosa. Guarda così. Ma passaggio lungo. Sì, è un pochino fatto, sempre che non usciva la prima giorno abbiamo trovato una capsula famosa e l'ho staccata, uguale se è scelto. Vediamo di regolare il settore così, se non ti dica io. contatto con la banda da solo. Tanto l'uscita è uguale, quando la ricezione fa. Vedete di quella allora, sono in attina. Mi piace di nuovo l'altra, quella che c'era, questa è stato un aspetto. Sì, un bel sacco allora. Non è che non si può trattare un inizio, ma è la prima che non la fai. Io ti sento così, mi ricordo mai che rispetto al controllo si sento meglio gli altri, e devo dire che io ti sento più male. No. C'è meno pari altezza, vi mettevo la fiume, c'era prima, che forse è meglio. E al limite per altri 1000 euro tipo di scorso, una basetta, una Fusano, costa poco, costa. Si prende la basetta intera, col cavezzo. Se con cavetto solare senza cavetto, costa anche poco. Ma io c'è un cavetto di cavetto. Però io, se ma comunque devo fare ricerca. Poi avevo il codice della padella a te, e così tu la prendi. Cosa c'è la Fusano ce l'ha quella antenna, ne vende lui. C'è anche il pezzo di ricambio, se lo stilo se la padella. Ma cosa fa? Non penso che costa 5, 6 euro, 10 euro, non penso che costa di più, no? Che cos'è il cappello? Eh? Ma chi sono le cose? A volte non si sta facendo proprio quelle... a intuito la breccia. Si sta... Però che vado fuori? Un bel sacco, se non c'è un attaccato da mille, poi... Come va a chiamare di essere qua? niente. Thank you. che non ci vuole l'altro, lo chiede, ma non lo chiama così. E allora pensate che dovrà aspettare, si può fare così, perché sapete come tanto lo fece tutto, quasi l'intese. Perché sì, quasi tutto. Guardi che in altre non ci siamo usciti dall'intenzione. Sapete che dove ci fosse una parte, dove ci fosse l'altra, come dove vanno quelle dove ci fosse, ma si vanno in antenna. Guarda che commutatore l'antenna ti stacca il positivo, l'unica cosa che rimane sono la tua massa, e basta, non ti fa altro. Se tu attacchi i due positivi, allora si che c'è corrente da una parte all'altra, quindi come prima provate uno, ma il fatto di uno, ma non dell'altro, ma non c'è tutto. E quindi quando c'è l'altro, ma cosa fai tu? Ti metti il cavo di acciaio nella manto, ma l'altro quando c'è una bomba di metterla al filo, ti fa la conta che il commutatore dell'antenna. O ti pensi di fare a chiedere come lo fai tu? Con una palla di trovata ascolti. Scusa, perché io sono con l'antenna secondo la tesatura? Se volevo commutavo per lavoro, un altro di barattina, non l'ho fatto. Perché ce l'hanno una parte la magnetica dall'altra. Sì, quando è finito passi qua, che così c'è. se non è vicinato qualcosa. Mettiamo le 16 provvisori, siamo con le 27 di radio a te. Pronto. Buonanotte, mi vado con il camion, ci siamo domani, sarà niente.